Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, oggi siamo in ritardo come avrete notato, 17:14, però i fatti di cronaca, ciò che sta succedendo nel mondo insomma richiedeva spazio che avrà anche nelle prossime edizioni del GR. Tante cose di cui parlare insieme oggi. Andrea Zorzi qui vicino a me. Ciao a tutti, ben ritrovati. E oggi parterre de roi perché c'è anche, tornate a trovarci Gaia Piccardi, prestigiosa firma del Corriere della Sera. Ciao Gaia, grazie. Grazie, buongiorno. Poi, avendo tardato un po' nell'entrare in onda, siamo riusciti anche a vedere un amaro finale dell'Italia del rugby a Murrayfield. Abbiamo perso 21-8 e tra poco ne parleremo anche con gli ascoltatori, immagino, 800-24-0024 numero verde. Nel GR invece avete sentito l'altra notizia del pomeriggio, e cioè che la scuola australiana del ciclismo non è solo McEwan, non è solo Cadel Evans, ma è anche questo Matthew Goss, che oggi ha infilato la perla più prestigiosa nella sua carriera vincendo la Milano-Sanremo davanti a Cancellara. Nibali bravissimo oggi in una gara molto difficile e con le solite cadute, ma di Goss lo sprint vincente, sprint a Rangheri di Gottin, in cui Pozzato non è riuscito a concedere la vittoria all'Italia in una settimana così importante. Un peccato. Ci fermiamo adesso subito per il traffico e poi cominciamo a parlare di varie cose, vari argomenti, a partire dal rugby. Speciale 6 nazioni. Entriamo con la voce di Leonardo Ghiraldini, tallonatore azzurro con Sky. Una meta che forse in un momento di stanchezza nostro ci ha tagliato le gambe. Peccato perché ci credevamo tanto anche dopo la partita con la Francia la settimana scorsa. Siamo allenati bene, abbiamo iniziato anche la partita molto bene, stavamo bene fisicamente. Chiaramente anche la Scozia ha dato tutto, è stata una partita molto intensa, peccato. Resta negli occhi. È peccato, sì, vincevamo 8-6 dopo il primo tempo, nel secondo tempo un parziale terrificante 15-0 per gli scozzesi, caro Andrea Zorzi. Terreno minato oggi, vero? Perché? Beh, perché tra il peccato che sentiamo ripetere spesso dai giocatori e dopo la vittoria importante con la Francia ci si aspettava una conferma, anche dai messaggi dei tifosi in settimana c'era questa speranza che potessero confermare, non è accaduto. Lungi da me pensare di contrapporsi in modo netto con i tifosi, però effettivamente insomma l'idea che alla fine si continua a vincere poco è ciò che caratterizza il rugby italiano. Già, Gaia Piccardi, come lo vedi il rugby? Lo segui? Ma insomma un brusco ritorno sulla terra o alla normalità, per così punzecchiare un po' gli amici del rugby che sono così suscettibili alle critiche. Sentiamo com'è andata invece, facciamoci raccontare la partita da Flavia Carletti, da Murrayfield. Flavia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, quello, diciamo, com'è andata la partita l'avete detto voi. Il finale è stato 21-8 per la Scozia con un parziale di 15-0 nel secondo tempo. Diciamo, dopo che nel primo tempo si era chiuso per 6-8, in qualche modo si poteva sperare di riuscire a contenere la partita o comunque di mantenerla in vantaggio per l'Italia. Purtroppo, quando le squadre sono rientrate nel secondo tempo, si è visto in qualche modo da subito, dai primi minuti, che l'Italia quasi non ci credeva più, o comunque la Scozia è riuscita a sfruttare qualsiasi errore dell'Italia. Nel bene e nel male, in effetti, la partita è stata fatta dall'Italia, perché ha costruito lei e ha sbagliato lei, e la Scozia è stata brava ad approfittare di tutti gli errori della nostra nazionale. Quali principali? Ma i principali sono stati in touche, perché per esempio le prime quattro del primo tempo sono state tutte sbagliate, e poi anche nel secondo tempo ancora qualche loro in touche, e poi nei punti d'incontro troppo spesso la palla persa dall'Italia nel momento in cui il giocatore italiano veniva placcato. Grazie Flavia, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Flavia Carletti. Sentiamo anche un parere da Giacomo Bagnasco, la nostra voce del rugby storica, perché noi di rugby parliamo tutte le settimane, non solo quando c'è la nazionale. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, sì è vero, ci sentiamo tutte le settimane, di rugby parliamo anche sul sito del Sole 24 ore, quindi diciamo che con alterne fortune di interventi e continuità di presenza sul rugby. Senti, ma ci siamo questa partita perché l'abbiamo persa? Vantaggio dopo il primo tempo, la meta di Masi, la Scozia che ha segnato solo coi piazzati di Patterson nel secondo tempo, perché siamo crollati? Guarda, il primo tempo è stato buono, nella ripresa secondo me che cos'è successo? È successo che l'Italia pensava forse di poter contare su alcuni punti di forza, e questi punti di forza invece si sono rivelati debolezze nostre e forza degli avversari. La Scozia ha riproposto praticamente la stessa formazione che aveva giocato domenica con l'Inghilterra, una partita durissima, 12 giocatori acciaccati, recuperati e più freschi degli italiani nel secondo tempo, nonostante l'Italia avesse avuto anche un giorno di più a disposizione per recuperare. Si poteva pensare di cavarsela meglio degli scozzesi in mischia chiusa, invece gli scozzesi in mischia chiusa hanno tenuto molto bene, almeno una meta è venuta partendo proprio da questa fase statica. Si poteva pensare, vedendo la Scozia delle ultime partite, che loro fossero una squadra generosa, una squadra con buoni valori, ma una squadra portata all'errore. Invece nel secondo tempo soprattutto gli errori li abbiamo fatti noi, loro sono riusciti a giocare azioni importanti su più fasi senza sbagliare, noi invece magari riuscivamo in base a molte fasi di gioco ad avanzare anche più del solito, ma poi quando l'azione diventava un po' troppo lunga, o la stanchezza o la deconcentrazione, qualche errore arrivava puntualmente. Flavia ha ricordato anche le touche perse, sicuramente il rugby non è uno sport legato alle prestazioni di un singolo, ma certamente all'Italia non ha fatto bene l'uscita prematura di Masi già nel primo tempo, dopo che Masi era stato l'autore dell'unica meta degli azzurri con un bellissimo sprint, una bella azione in questo caso dell'Italia, ma soprattutto un bellissimo break di Masi, che in queste ultime due partite sembrava un po' l'uomo in più degli azzurri. Giacomo, azzurri che hanno segnato gli ultimi punti al 30° del primo tempo, quindi 50 minuti senza segnare neanche un punto, un'eternità. Giacomo, ti chiedo due numeri per chiudere. A memoria, quante mete ha segnato l'Italia in queste sei nazioni? Guarda, dunque, ne dovrebbe aver segnato una con l'Irlanda, un'altra con l'Inghilterra, io credo siamo sulle 5-6 mete. 5-6 mete, quindi in linea rispetto all'anno scorso, 5 mete l'anno scorso, 2 mete nel 2009, 6 mete nel 2008, e secondo me il vizio di fondo è questo: gli altri giocano, noi giochiamo cercando di rendere brutti gli altri, poi se lo chiamo anti-rugby viene giù il mondo, però il concetto è che comunque non riusciamo a progredire da questo punto di vista con la palla in mano. Un altro numero che ti chiedo, Giacomo, è questo: quale voto dai all'Italia in questo sei nazioni? Ma guarda, io nonostante il grandissimo exploit contro la Francia, su cui abbiamo sicuramente anche espresso opinioni diverse, però torno a dire, la vittoria dell'Italia sulla Francia ha fatto il giro del mondo, è stata considerata dal Times la sorpresa più grossa del secolo, immagino del XXI secolo, ma insomma sono passati da 10 anni. A parte quello, sicuramente l'Italia non penso che possa avere raggiunto la sufficienza per gli altri incontri, soprattutto questo, diciamo, dopo naturalmente il tracollo con l'Inghilterra. Sì. Salverei in linea di massima la partita con il Galles, meno quella con l'Irlanda, che abbiamo perso di pochi punti, però giocando contro un'Irlanda che era veramente ai minimi storici anche come numero di infortunati, mentre poi in realtà la Francia almeno come uomini c'era. Certo. Direi che queste valutazioni sono valutazioni che poi verranno fatte anche già lunedì, credo, tra il presidente federale Dondi e il commissario tecnico azzurro Nick Mallett, che io penso a questo punto arriverà a guidare l'Italia anche ai mondiali che ci saranno in Nuova Zelanda a settembre-ottobre, e poi è molto molto probabile che la federazione scelga che un altro uomo. Il passo, magari tornando a un commissario tecnico francese, come tante volte abbiamo detto e come mi sembra più che probabile. Giacomo, ti ringrazio, alla prossima, che sarà la settimana prossima naturalmente. Ti faccio, cara Gaia, una domanda che ho fatto l'altro giorno a Franco Arturi prima di parlare con Mario dalla provincia di Milano. Si può nello sport essere molto ricchi e molto famosi vincendo così poco? Beh, mi sembra che l'Italia del rugby lo dimostri, si può, però se posso spezzare una lancia a favore di questi... Devi. Dei nostri rugbisti, non per difenderli perché sono grandi e grossi, sanno difendersi da soli, ma... A me sembra che siamo sempre all'inseguimento, cioè partiamo con l'ansia di colmare un gap evidentemente di tradizione, di storia e anche tecnico, senza permettermi di farmi analisi tecniche, che ci costringe a giocare sempre impiccati. Allora, la Francia ci ha sottovalutati e siamo stati bravi ad approfittarne, perché magari altre squadre non l'avrebbero fatto. In quanti altri sport ci abbiamo messo secoli per arrivare a vincere qualcosa? Penso alla Coppa Davis di tennis, penso alla Coppa America di vela, altro sport di grandissima tradizione che non abbiamo mai vinto. Abbiamo vinto la Vuitton Cup, che non è la Coppa America. Allora, se decidiamo che l'Italia del rugby non sfigura nel Sei Nazioni, può starci, e mi sembra che a livello internazionale su questo non ci siano dubbi, perché ho letto dei pezzi sull'Equipe prima ancora che l'Italia battesse la Francia, in cui si diceva che va bene che l'Italia sia nel Sei Nazioni, non sfigura. Allora, se decidiamo che ci sta, ragazzi, armiamoci di santa pazienza, perché i miracoli non si fanno. Mi sembra che ricambi al fulmicotone non ne abbiamo, quindi vanno in campo comunque migliori. Sì, il fatto è che io in 11 anni di Sei Nazioni non ho visto progressi né nella nazionale italiana, anzi abbiamo perso dei giocatori mai rimpiazzati come Dominguez e Troncon, né nel movimento di vertice del rugby italiano. Io di progressi non ne ho visti in 11 anni. Ora si dice, Andrea, che la Francia ci ha messo 40 anni per vincere, ma 40 anni a partire dal 1910. Sì, sì, ma il tempo è un tema, infatti Gaia l'ha toccato, è legittimo metterci un po' di anni per crescere, se ci si riesce, mica è obbligatorio farlo. Nella maggior parte dei casi degli sport avviene nell'anonimato, e quindi le nazionali provano a migliorare, giocano meglio, però stanno lì senza essere troppo conosciute. Ciò che caratterizza diversamente il rugby è che, nonostante non stia crescendo molto e non stia diventando una squadra del mondo, è comunque tutt'altro che anonimo. Questo è ciò che sportivamente colpisce, soprattutto chi, come me, appartiene ad altre discipline. Perché la convinzione è sempre che ci debbano essere alcuni criteri sportivi che giustificano la popolarità e anche l'aspetto economico. E continuo a dire, il rugby ha fortissimo l'idea dei valori, fortissima l'idea che sono gli ultimi grandi guerrieri, e questo viene fuori fortissimo, è un'immagine forte quella di ragazzi muscolosi che sanguinano, che lottano, e questo è fortissimo, però non è un valore esclusivamente sportivo ed è utilizzato alla perfezione anche dal marketing, che ha creato del rugby un fenomeno straordinario. A livello mondiale è un movimento importantissimo, conosciutissimo in alcune nazioni che non sono poi così tante, perché poi sono i Tri Nation nell'emisfero australe, il Sei Nazioni in quello. Dopodiché non voglio ripetere sempre la solita opinione sul rugby, cioè se il rugby cresce siamo tutti contenti, ci chiediamo dagli altri, applichiamo ai rugbisti e al rugby lo stesso parametro che applicheremo ad altre discipline o ad altri giocatori? O ad altri mestieri? No, anche perché giustissimo quello che dici, no? Hanno grande appeal e grande impatto, però se voglio vedere i guerrieri prendo il DVD del gladiatore e lo metto su, capito? Stiamo parlando di sport, voglio dire. Mario, provincia di Milano. Sì, buonasera. Niente, io volevo... avete già detto quasi tutto voi. Proviamo ad aggiungere qualcos'altro. Mi permetto di dissentire su una cosa: secondo me noi non ci meritiamo di star lì, perché c'è troppa differenza rispetto alle altre squadre a livello di gioco alla mano, a livello di saper stare in campo. A me non basta che siamo forti in mischia e se poi sbagliamo a tirare in mezzo ai pali, sbagliamo le touche, sbagliamo il gioco alla mano. Io continuo a pensare che noi dovremmo stare sì in un Sei Nazioni, ma di Serie B. Lo vinciamo contro la Spagna, la Scozia e qualche altra squadra che non sarà... La Georgia, la Romania. La Georgia, la Romania, la Russia. Noi vinciamo questo e di diritto partecipiamo a una cosa che ci siamo guadagnati. Non ogni anno lì per onor di firma, che poi alla fine non si vedono progressi. Io voglio soffermarmi lì. Questo gioco mi poteva star bene 7 anni fa, quando c'era Kirwan, è uguale. Esatto, esatto. Niente. Guardi, sono cose che dico anch'io, però sono cose che dico anch'io con alterne fortune, diciamo così. Alterne fortune cosa significa? Alterne fortune, con alterne fortune, Andrea. No, anche perché insomma il popolo dei rugbyisti si è un po' arrabbiato, come ma anche con te, ti hanno detto, ma parlasse di pallavolo. No, poi sai, certe volte mi capita di usare delle espressioni tipo catenaccio vale, oppure prendiamo botte e gol, ma so anch'io che non è catenaccio, che non è rugby, che botte e gol si prendono nel calcio. Mi sembrano però espressioni gergali che si possono usare in ogni settore della vita. Accade troppo spesso che uno sport tende ad avere voglia di essere più conosciuto, più popolare, ma poi alla fine ha voglia di difendersi nella sua purezza, e quindi accetta malvolentieri l'opinione di chi non appartiene a quel mondo. Comunque, per essere gente che ama saccagnarsi di botte e tirarsi grandi manate sulle spalle bevendo birra, sono suscettibili, ecco. Hanno un animo sensibile, questo va a loro merito, ovviamente. Ma certo. No, poi insomma, di rugby parliamo sempre, e quindi io continuo da 11 anni a parlare di un campionato che è andato sempre più giù, di coppe europee in cui ogni volta andiamo a giocare all'estero o in Italia, insomma, coppe europee in cui non si vince lo straccio una partita o quasi, e quindi questo fa abbastanza male, diciamo così. Ci fermiamo un attimo, poi continuiamo a chiacchierare insieme, anche allargando il discorso ad altri temi, ad altri motivi, ad esempio a chi non dovrebbe fare a botte e invece lo fa, come De Rossi col suo gomito largo, come Balotelli col suo colpaccio da Kung Fu o da qualcos'altro, non da rugbista certamente, poi viene escluso dalla nazionale. È giusto questo codice deontologico? È giusto privarci per in due partite che comunque conteranno in termini di punti di giocatori così importanti? Secondo me sì. Poi lo chiedo a Gaia Piccardi, Andrea Zorzi, lo chiederò anche a voi. Ci fermiamo un attimo. Dunque torniamo, c'è chi chiede i risultati della Serie B, i risultati del pomeriggio. Comunque ricordo, l'ho detto in apertura, lo ripeto, con Matthew Goss che ha vinto la Milano-Sanremo davanti a McEwen, a Cancellara, scusate, non a McEwen che è australiano peraltro come Goss, ma davanti a Cancellara, quarto Ballan, primo degli italiani. Poi c'è la nazionale di rugby di cui stavamo parlando, che ha perso 21-8 con la Scozia, dunque anche quest'anno è stato cucchiaio di legno riservato all'ultimo in classifica. Non whitewash, cioè nessuna vittoria, nessun punto nel torneo come molte altre volte ci era, ahimè, capitato. 800240024 è il numero verde, c'è chi vuole, diceva, i risultati della Serie B, li do così al volo. Sassuolo Modena 1-1 giocata ieri, Atalanta batte Piacenza 3-0, l'Ascoli vince 1-0 a Cittadella, Siena vince 2-1 a Crotone, Frosinone batte Torino 1-0, Livorno Grosseto 1-1, Padova che vince 2-0 a Pescara, Porto Gruaro 2-1 sull'Albino Leffe, Triestina Varese 1-1, Vicenza batte Novara 1-0, risultati importanti per la testa, dove l'Atalanta è sola, 63 punti, seguita da Siena 60, da Novara 55. C'è chi via SMS risponde alla domanda che rifaccio ai miei ospiti Andrea Zorzi e Piccardi tra un attimo. De Rossi scrive via SMS, andrà da Roma, evidentemente laziale. De Rossi è un violento e non fosse per il calcio sarebbe un delinquentello metropolitano, perché non ce lo vedo un romanista che manda questo messaggio, onestamente. Sarò malizioso, ma è così. Oppure un altro messaggio, privarsi di De Rossi e Balotelli è una fantastica opportunità per ripulire un pochino l'immagine di noi italiani nello sport, scrive un ascoltatore anonimo. Che durezza. No, insomma, mi sembra un commento un po' duro, anche se sono d'accordo con il codice etico e sono d'accordo anch'io, che chi è violento, che chi non rispetta le regole di base, non gli si chiede di essere dei chirichetti, non debba giocare, anche perché questo è l'unico modo in cui secondo me possono imparare la lezione. Se gliela dai sempre vinta diventi Cassano. Assolutamente. E poi apprezzo in maniera particolare il non fare deroghe di nessun tipo a questo regolamento che si sono dati. Magari eviterei di collegare subito i comportamenti in campo con le possibili risposte, sì, che avrebbe fuori. Quindi De Rossi valutiamo quello che fa in campo. Poi ricordiamoci che io trovo che il codice etico sia un buon modo per iniziare, ma è un processo, cioè è un pezzettino di un percorso da fare. Non basta fare un codice etico, occorre, come dicevete, farlo rispettare da qui per un bel po', fino a quando questo diventerà un atteggiamento comune che tutti considerano assolutamente dovuto. Chiaro, quindi non è che basta farlo e la risposta è già arrivata. È un pezzettino piccolo, il primo passettino da fare su un processo che rimane lungo. Poi De Rossi, di fronte all'eventualità di esclusione qualche tempo fa, aveva risposto in modo un po' tamarro, cioè vabbè, se non mi convoca non sto a casa, mi riposo. Vabbè. Non è escluso per sempre. Cioè, no, beh, in questo caso con partite che comunque contano per la classifica. Ce l'avevate un codice etico, uno spogliatoio della nazionale di pallavolo? Non era esplicitato in questo modo, era implicito. C'era qualcosa che era vietato fare per un'esclusione? Bastava molto di meno, bastava protestare o bastava... Ma sai, queste qui sono le regole del gruppo che vengono condivise e diventano la quotidianità, quindi... Nel nostro gruppo, parlo dei momenti più belli, bastava non dare il massimo in ogni istante per sentirsi in qualche modo accusati anche dai compagni, non direttamente, non a parole, ma ti rendevi conto che stavi facendo qualcosa che non andava bene. E questo è esattamente l'ambiente che permette di innalzare il rendimento e di diventare più forti. Non è una questione di leggi scritte, anche se ogni tanto questa operazione deve essere fatta in modo molto chiaro. L'allenatore dice: io credo che si debba comportare in questo modo, ad ogni allenamento chiarisce il concetto, riprende chi non lo sta facendo e poi questo, a forza di andare avanti, diventa il comportamento comune. Stefano da Vicenza, buongiorno. Sì, buonasera. Dica. Intanto grazie a Radio 24 per tutti i bei programmi che grazie. Ci fate ascoltare. Grazie a lei che li ascolta. E niente, io volevo solamente chiedere, da, come dicevo prima, cioè, da inesperto del rugby, però mi piace, quindi lo seguo. E volevo capire così, no? Ma il fatto, come diceva lei prima, che da 11 anni il rugby non cresce, quella roba lì, ma secondo lei, no, è una domanda la mia, e io penso così almeno da inesperto, no, è dovuto al fatto che comunque il calcio ha più pubblicità, ha più investimenti, cioè i grandi ricchi d'Italia, diciamo i presidenti, investono sul calcio, meno sul pallavolo, cioè c'è meno proprio pubblicità, meno giovani, perché si sente il calcio come primo sport, secondo me e secondo lei. Poi un'altra cosa, appunto, visto che lei ha proposto la domanda, secondo me sì, fanno bene a lasciare a casa, se fosse Balotelli, anche De Rossi, perché secondo me ci vuole buon costume anche nello sport, perché perché i bambini, io gioco a calcio, faccio anche l'arbitro, quindi secondo me è molto importante l'esempio che ci danno, visto che anche sono in televisione. Lei fa l'arbitro di calcio? Sì. Io le giro questo... 5. Io le giro questo messaggio che mi è arrivato da Alex da Taormina, che ha scritto, anzi no, questo è, non Alex da Taormina, è un'altra cosa, ma questo di Marco, che non so da dove scrive, però oggi ho visto un pezzo del derby Primavera di Genova, si comportano come i grandi, protestano, fanno mezze risse, che desolazione il calcio. Sì, beh, credo che, io dico sempre, penso dentro di me, che noi siamo i nemici dei giocatori, cioè quando arriviamo, cioè non siamo amici di nessuno, non c'è rispetto proprio, quello è sicuro. Cioè noi andiamo con, io personalmente vado con la mia massima professionalità, sono dilettante e cerco di dare il massimo, però sicuramente ci deridono, cioè anche nei falli cadono apposta, si alzano, ridono, cioè ci prendono anche in giro tante volte quando vuole. I ragazzini. Sì, sì, beh, ma io arbitro anche adulti. No, ma però... lo so, però che mi preme questa storia dei ragazzini. Dei ragazzini non dovrebbero permettersi di non dico di insultare, ma nemmeno di protestare nei confronti di un adulto che sta arbitrando le loro partite per il loro divertimento. Comunque, io la ringrazio Stefano e giro questo pacco di considerazioni ai miei ospiti, a cominciare da Gaia Piccardi. Che dire, come dire, l'educazione dei ragazzini deriva dalla famiglia, è un discorso molto complesso. È chiaro che se pensiamo com'è che lo sport debba avere anche un valore educativo, debba formare, debba dare dei valori, a questo punto torniamo a parlare di rugby, perché lo sport con i valori massimi mi sembra continuare ad essere il rugby. Ci si picchia ma sempre con grande rispetto, insomma le scene che vediamo sui campi da calcio a volte in effetti ci lasciano senza parole. Cosa posso dire? Avviamo i ragazzini al rugby. No, ma questo sì. Stabiliamo per decreto una quota di ragazzini che debbano, se non altro, provare a giocarlo prima affollarsi sui campetti di calcio e sognare tutti di diventare Balotelli. Io, come al solito, direi fategli fare un sacco di sport diversi. Sì. Il rugby non è la panacea, è una delle opportunità molto interessanti per non restare a giocare solo al calcio, ma anche il calcio potrebbe esserlo. E chiudo solo dicendo, non pensiate che l'esempio che danno ogni tanto De Rossi o Balotelli o qualcun altro che viene, come dire, pizzicato in affare, non è per quella ragione che i ragazzini si comportano male. È che l'esempio generale, anche di chi poi accusa De Rossi o gli altri, è negativo. I ragazzini sono lo specchio di come noi ci comportiamo. Sei sicuro? Sì, e comunque quindi... vorrei dire che le società di calcio con i vivai più ricchi e più organizzati sono molto attenti a questo aspetto, per cui io non escludo che sul campetto di periferia ci siano due ragazzini che già a 12 anni sono teppistelli e vanno lì per menare le mani, ma ad esempio i vivai di Milan, Inter, delle grandi squadre mettono i ragazzini fuori squadra se si cioè c'è già un piccolo codice etico da rispettare a quell'età e mi sembra una cosa molto intelligente. Certo che lo è, non capisco perché, visto che il codice etico da rispettare è gratis, non capisco perché non si debba fare a qualunque tipo di livello. Assolutamente, a qualunque tipo di età. Ci fermiamo per il traffico. Io vorrei aggiungere un altro spunto di discussione che ci viene dalla scheda di Cristiano Bartelloni, sentiamolo insieme. I tennisti che parteciperanno al prossimo Master Series di Madrid troveranno una sorpresa. Il 29 aprile 2011 la tradizionale terra rossa su cui si tiene il torneo diverrà blu. Daltonismo o miraggio? Niente di tutto ciò. Il responsabile è il business. La terra blu permette di vedere meglio la pallina attraverso lo schermo televisivo e il manager Ion Tyriac ha pensato bene di cedere alle lusinghe dei network e dei ricavi pubblicitari. Tutti i giocatori si sono detti contrari a questo strappo alla tradizione, ma Tyriac sa che con la tradizione non si fanno affari. In Italia non andiamo meglio e Giuseppe Sculli, attaccante della Lazio, ne ha fatto le spese. Durante la partita Lazio-Palermo, dopo aver segnato una doppietta, il giocatore è stato costretto a uscire in preda ad un attacco allergico. Il responsabile? Ancora il business. I campi della Serie A non si distinguono per la qualità del loro manto erboso, ma le indagini di mercato dicono che i telespettatori vogliono i campi verdi come quelli inglesi. La soluzione? Verniciare i terreni di gioco. Giuseppe Sculli però ha rischiato la salute per una reazione allergica alle sostanze usate per colorare. A questo punto è lecito domandarsi cosa accadrà ai tennisti alle prese con la terra blu. Perché di una cosa si può star certi: la natura non si fa mai fregare. Carina questa, Gaia Piccardi, tra l'altro tennis porta a te molto vicino, Roland Garros blu, non lo so, noi siamo, discutiamo spesso di luoghi di sport, siamo un po' romantici, io e Zorro, luoghi di sport che ci emozionano, cose cui siamo legati senza essere per forza dei cultori del passato ad ogni costo, però Roland Garros blu. No, il Roland Garros blu è un pensiero che la mente non può considerare come il mare d'inverno, non sì. Esiste, non si deve fare. Se poi nei Master Series, che spesso sono usati per fare esperimenti di questo tipo, cambiano il colore delle palline, mettono le top model a fare le raccattapalle, si inventano questo. Questo so che vi piace. Non discuto, però non toccate l'erba di Wimbledon e io sono una che ogni volta che varca i sacri cancelli si commuove. A proposito, visto che ci siamo, luoghi di sport che ti stanno a cuore o come vivi i tempi dello sport? Beh, dunque, qualcuno con grande indifferenza, qualcun altro con commozione massima, tipo ad esempio Wimbledon, ecco, la prima volta a Wimbledon non si scorda più. È una grande emozione, però io ho un legame con il tennis come non ho con il calcio, ad esempio, quindi ho un ottimo ricordo di tutti gli stadi inglesi meravigliosi. Però nessuno che ti fa battere il cuore? Beh, insomma, ce n'è qualcuno che qualche palpito in più me lo dà. Nulla è come Wimbledon, però questa è la mia storia personale. In Italia invece? Sono storie personali. Ma in Italia stadi di calcio che fanno... No, qualunque cosa, luoghi di sport. Ma non lo so, l'Olimpico pieno per il derby ha un suo fascino, con le curve, ricorda un po', non so, ti viene in mente la Coppa, Liverpool. Però il Foro Italico, per esempio no? Il Foro Italico è meraviglioso, sì, il Foro Italico è un museo a cielo aperto. Il Foro Italico è di una bellezza straordinaria, cioè è la storia, non so come dire, è qualcosa che va al di là dello sport, è come andare al Circo Massimo. Sì. Io credo in Italia basti dire Roma 60. Quasi tutti i luoghi che hanno caratterizzato quelle Olimpiadi sono straordinari, perché sono storicamente rilevanti, perché sono bellissimi e perché hanno anche una storia dalla quale è difficile staccarsi. Una per tutti, la Basilica di Massenzio, ho visto solo le immagini, ma il fatto che facessero lotta greco-romana sotto queste volte, con il pubblico seduto in queste temporanee parterre, è proprio il posto più bello del mondo, la maratona di Bichila. Ah beh, certo, no, io stavo pensando all'arrivo della maratona di Atene, anche quello al Panathinaico, strepitoso, sì, strepitoso. Quello beh, sì, se ci mettiamo a parlare di luoghi veramente non finiamo più, perché vedi, mondo ne è costellato proprio. Sono cioè storie personali poi, sì, in fondo. Ma cioè allora mi emoziona anche il Golfo di Auraki, dove Luna Rossa ha vinto la Vuitton Cup, che non è uno stadio in senso classico, però è un luogo di allora, sport. Allora, dobbiamo coinvolgere Gaia nel nostro viaggio alla ricerca dei luoghi dello sport che hanno fatto l'Italia. Bello. Perché io, Caro non vuol venire. Poi però, chi parla di rugby, abbia pazienza. Però io parto a metà maggio e faccio il giro dell'Italia, prima nel sud, alla ricerca di questi luoghi dello sport che hanno fatto l'Italia. Bella idea, Andrea. E quindi alcuni sono veramente straordinari. In Sicilia, per esempio, le Madonie, per la Targa Florio. In Sardegna, lo stadio Amsicora, luogo della vittoria dello Scudetto, ma non solo. E poi così risaliremo l'Italia con l'idea che alla fine ci piacerebbe fare una guida per visitare l'Italia seguendo i luoghi di sport. Comunque il mondo ne è pieno, e poi se allarghiamo il discorso, non so, mi viene in mente a Monaco, è chiaro che usciamo dallo sport, andiamo nella cronaca pure nera, la palazzina dell'attentato all'Olimpiade è un posto che è ancora carico di una forza evocativa straordinaria, certo. Per cui se tu ci vai e ti piazzi sotto la palazzina e alzi gli occhi a quel balcone, ti sembra di vedere quelle ombre, ti sembra di vedere l'uomo col passamontagna ancora lì. È una roba bestiale. Connessione immediata: a nord di Tel Aviv, pochi chilometri, c'è il centro sportivo israeliano, dove ci sono le palestre costruite con i soldi dei tedeschi per quell'attentato. Il nome di ogni palestra è il nome di uno degli atleti israeliani che morì in quell'attentato. Paolo, provincia di Roma, poi dobbiamo andare a casa tra due minuti. Dica, buonasera. Buonasera a tutti e complimenti con la trasmissione, come si dice di solito. Grazie. Senta, volevo riprendere rispetto agli sport giovanili, ai ragazzi che frequentano le palestre, i campi per gli sport giovanili, e all'attenzione che i genitori nella maggior parte delle volte ci mettono per far sì che gli sport da gioco diventino agonismo. Non è solo il rugby, che è uno sport che a livello giovanile riesce a rendere meno conflittuale il rapporto tra gli atleti in campo, ma anche il basket, anche la pallavolo, anche altri sport ci riescono. Diciamo che il calcio in questo senso ha un primato difficilmente eguagliabile per quanto riguarda la conflittualità. Ma spesso e volentieri tutto quanto dipende anche dalle aspettative che i genitori, l'ambiente, la situazione mette intorno al giocatore. Sicuro. Quasi tutti quanti gli altri sport si fanno per il piacere di fare sport, non tanto per l'obiettivo del successo e della ricchezza. Nel calcio invece spesso e volentieri, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, il piacere di fare sport lascia subito il passo invece Guardi Paolo, però io non credo che sia colpa del calcio in senso stretto, io credo sia colpa di come lo si vive, anche da un punto di vista puramente statistico, di quelli che lo praticano e che insomma comprendono un maggior numero di maleducati. Non mi riferisco ai ragazzini quanto a chi li accompagna al campo. Io sono sempre dell'idea che dell'idea di quella società, di quella famosa società toscana che disse i genitori qui non entrano mentre i ragazzini giocano, stanno in palestra a discutere di educazione sportiva e di altre cose. Che dite, ragazzi? No, grazie Paolo. No, vedi che alla fine, Carlo, chiudiamo il cerchio, l'importante è partecipare, viva il rugby. Un'altra volta, vabbè. L'importante è partecipare. L'importante visto non è che vincere. Sport, anche sì, vincere. Sì. L'agonismo è secondario, allora viva De Coubertin. Sì, se andiamo io e te e Andrea, Andrea no, lo lasciamo a casa, se andiamo io e te a giocare a ping pong. Esatto, se andiamo io e te a giocare a ping pong, l'importante è partecipare. Se fai sport in maniera professionale, conta anche qualcosa. Volevo provocarti. Sei riuscita. Conta anche qualcosina d'altro. È andata bene va oggi. Grazie Gaia, torno a trovarci. Grazie a voi, buonasera. Grazie Gaia Piccardi. Andrea, tu torni, vero? Sì, torno. Torni. Non sono mai rimasto così a lungo a Milano. Bravo. Grazie a Luca Rinaldi in redazione, a Paolo Corleone in regia, c'è anche Cristiano Bartolone. Ci sentiamo domani dalle 4:30 alle 7 per il calcio, poi dalle 8:30 alle 9 per il basket. Buona serata.